La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, in diretta qui dagli studi di Radio 24 di Milano, alle 16.31, primi 10 secondi, Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazio, vi auguro un buon inizio settimana, se non ci siamo già sentiti questa mattina con Alessandro Milan, attenti a noi due, e vado subito all'argomento del giorno per consentirvi di telefonare 800 24 0024 per gli sms 349 2386 66. Vi annuncio l'argomento, poi vi devo leggere la lettera di un ascoltatore su un tema, ma intanto l'argomento del giorno è la nuova disciplina della responsabilità civile e penale del medico nei confronti dei pazienti. Quindi è un invito ai medici e a tutti coloro che hanno avuto a che fare con il sistema sanitario nazionale per capire come la pensate di questa riforma della disciplina, che in realtà nella disattenzione generale, ovviamente da 10 giorni l'informazione è tutta concentrata sui fatti del terrorismo, sta però rapidissimamente in corso di approvazione parlamentare. Ora vi spiego di che cosa si tratta in poche parole, che non danno l'idea della complessità del tema, ma in poche parole tenterò di spiegarvelo e poi sono curioso di capire che impressione vi fa, quindi telefonate per favore, soprattutto se siete stati o ritenete di essere stati protagonisti oggetto di vicende di malasanità, scelte errate dei medici, della diagnosi, terapie, somministrazione di farmaci. L'argomento di cui trattiamo oggi è proprio relativo a questo. Allora, la situazione generale in questi anni, ne abbiamo parlato un paio di volte, anche se però in passato, ha visto moltiplicarsi il contenzioso giudiziario su questi argomenti, tanto che, più volte l'abbiamo citato parlando di sanità, alcune assicurazioni hanno iniziato non solo ad elevare tantissimo i premi delle assicurazioni nei confronti dei medici, ma talvolta persino a rifiutare la sottoscrizione delle polizze assicurative. Perché? Proprio per il proliferare di questa conflittualità giudiziaria, che i medici hanno iniziato a lamentare come un vero è proprio ostacolo all'assunzione di valutazioni e decisioni nella piena serenità professionale. Punto di partenza. Com'è la disciplina oggi? Ecco, la disciplina oggi nei confronti della responsabilità civile del medico è, per sentenza, cioè per giurisprudenza della Corte di Cassazione, quello tra medico e paziente è una natura, per quanto possa sembrarvi strano, dal punto di vista giuridico, è un rapporto di natura contrattuale. E questa assimilazione al rapporto contrattuale fa discendere la tipologia di responsabilità nel caso di inadempienze, quindi di azioni giudiziali volte a lamentare, a fermare la responsabilità di medici o paramedici nei confronti del paziente per errori gravi, colpe, omissioni, dolo, eccetera, eccetera. Cioè, dalla natura contrattuale ne deriva che la prescrizione è di 10 anni attualmente per poter intentare un'azione e a oggi, proprio per l'inadempimento contrattuale, non è il paziente che deve dimostrare la colpa, la responsabilità del medico. È il medico che ha l'onere di provare in giudizio di aver agito senza colpa, e ovviamente questo si spera, ma senza dolo, ma comunque senza colpa. Questa è la situazione. In questa situazione una commissione ministeriale ha proposto un cambiamento, a dire la verità, radicale di questa impostazione e quindi ha indicato la necessità di procedere a un ribaltamento dell'onere della prova, cioè ha proposto che sia il paziente a dover dimostrare in giudizio la responsabilità e quindi la colpa del medico. Naturalmente questo significa che la prescrizione passa da 10 anni a 5 anni, l'onere appunto della prova della colpa grava sul paziente, quindi diventa un rapporto di natura extracontrattuale. Questo per le strutture sanitarie come ospedali, case di cura, eccetera, eccetera, pubbliche o convenzionali, mentre invece per il medico libero professionista resta di natura contrattuale. Ma per quello che riguarda gli ospedali, le case di cura, eccetera, eccetera, pubblici e convenzionati, si passa da un sistema di prescrizione da 10 a 5 anni, ma l'onere della prova non è più a carico del medico, ma diventa a carico del paziente. Questo di fondo, ecco. Poi ci sono alcune altre cose parallele e concomitanti, ma la vera riforma è a questo punto di fondo, ed è una riforma che il governo, dopo l'approvazione proprio in questi giorni, che è già venuta alla Commissione Affari Sociali della Camera, il governo ritiene molto rapidamente, il ministro Lorenzin ritiene molto rapidamente di collegare addirittura la legge di stabilità, quindi una riforma che entra in vigore dal 1° di gennaio dell'anno prossimo. Allora, il dibattito ovviamente, sia pur sotto traccia, è tra chi ritiene, sostanzialmente chi rappresenta la professione medica, che questa svolta sia necessaria, visti gli eccessi di contenzioso giudiziario, con accuse anche velate e manifeste all'avvocatura istigarlo, per così dire, di mandare i propri rappresentanti negli ospedali ai familiari dei pazienti per manifestare l'immediata possibilità di intentare azioni, e chi in rappresentanza dei pazienti, per esempio il Tribunale del Malato, il Tribunale dei Diritti del Malato, dice: no, scusate, ma se diventa a carico del paziente dover provare in giudizio la colpa dei medici, gravi carenze nella diagnosi, nella somministrazione di farmaci, nelle terapie seguite, nelle operazioni svolte a carico del paziente, ci dite come si fa a poter avere le prove in base alle quali poter intentare azione e eventualmente vincerla, visto che la cartella clinica è nel corso della degenza inaccessibile per il paziente, poi viene consegnata all'atto delle dimissioni, è comunque redatta dagli stessi medici nei confronti dei quali poi si dovrebbe intentare azione, visto, il sottinteso è che è cartacea, manipolabile, eccetera, eccetera. Come si fa a credere che i pazienti possano davvero affermare le proprie ragioni? Questo è il punto di fondo che soggiace a un problema che però vivono centinaia di migliaia di italiani ogni giorno. È un problema molto delicato perché investe la deontologia professionale, da una parte la tutela della serenità nell'esercizio della professione medica, ma dall'altra il diritto di centinaia di migliaia di pazienti. Vi faccio notare che in Italia la cartella elettronica aggiornata a ogni singolo passaggio dello stato clinico di somministrazioni, operazioni, eccetera, eccetera, non è ancora la prassi regolare dei nostri ospedali. Mi chiedo come mai, perché secondo me questa dovrebbe essere una delle risposte, nel senso che magari una commissione etica dell'ospedale, anche con presenze terze rispetto all'ospedale, garante della piena accessibilità a ogni stato del trattamento sanitario per i familiari e il paziente, di dati elettronici che non sono manipolabili, perché sennò rimane il fingerprint, le impronte digitali di chi le manipola, questa potrebbe essere una buona garanzia. Però la mia è un'opinione di un paziente e basta. Allora, abbiamo invitato due ospiti per capire come la pensano in relazione a questa nuova disciplina, alle ragioni del cambiamento e se questa è la soluzione più opportuna per equilibrare questi diritti che ai miei occhi sono altrettanto importanti e che però forse rischiano con questa riforma di essere non più equilibrati. Non so se fossero equilibrati prima, ma certo mi pare che oggi il paziente, non avendo le carte in mano o avendo quelle elaborate da coloro i quali poi prendono le decisioni, non è detto per garanzia che siano nelle migliori condizioni per far valere i propri diritti. Allora, abbiamo invitato da una parte Costantino Troise, che è il segretario della NAO, Assomedici, cioè l'Associazione dei Medici Dirigenti. Buongiorno e grazie di essere con noi, segretario. Buongiorno a voi. È il presidente di AL Assistenza Legale Premium, Cristiano Cominotto, quindi stiamo parlando di un legale, di un avvocato. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, segretario Troise, che pensa di questa riforma? È una buona soluzione secondo lei? Ma innanzitutto complimenti a lei per la sua sintesi, insomma. Poi devo dire che il primo merito di questa riforma è che ci sia una legge, perché ad oggi nel vuoto normativo le regole sono state dettate da sentenze della magistratura. Come spesso anche capita in Italia, sì. Come spesso capita, anche in questo campo ha fatto supplenza alla politica, insomma. Il secondo merito della legge è aver riconosciuto un profilo specifico del reato colposo sanitario, insomma. Sì. Le tengo presente che questa assenza ci accomunava al Messico e alla Polonia, al mondo, soltanto tre paesi non avevano identificato un carattere specifico del reato colposo in sanità, tenendo presente che l'attività sanitaria ha un fine comunque sociale. Certo. Io credo che sia una buona soluzione, che garantisca l'equilibrio tra gli attori, che era stato stravolto dalle sentenze della magistratura, facendo giustizia della cosiddetta responsabilità da contatto, per cui il medico o l'infermiere, voglio dire, certo, è responsabile non perché il malato l'avesse scelto, impossibile, i turni in ospedale, certo, e l'ambulatorio, voglio dire, ma semplicemente per essere venuto in contatto episodico e fortuito con quel paziente, voglio dire. Lei capisce da solo, insomma, che se un paziente che è pronto soccorso aspetta una visita, cade alla barella e si fa male, è assurdo ritenere quel medico responsabile di quel trauma e dei danni conseguenti, insomma. Io credo che la legge non faccia assolutamente danno ai cittadini, i quali possono continuare a rivalersi addirittura sull'assicurazione, perché la legge non soltanto dice che la struttura è responsabile di quello che accade per opera dei suoi dipendenti, ma che è obbligato per trasparenza a presentare, a dar conto della polizza assicurativa della quale risponde a questi danni, insomma. Anche perché la legge dovrebbe rafforzare l'obbligatorietà, certo, dell'assicurazione, certo, delle strutture ospedaliere, certo, pubbliche. Certo, certo, che è già citato non soltanto per contratto dei medici dipendenti, ma addirittura già da un'altra legge, del decreto, sì, enti locali dello scorso anno, esatto, chi lo va a rafforzare. Tenga presente, e concludo, che dal punto di vista penale, voglio dire, oggi già in qualche modo l'onere della prova è a carico del cittadino che denuncia, insomma. Anche questo motivo spiega perché in penale è molto più difficile avere una condanna dei medici, tant'è che 98% dei medici vengono assolti, insomma. E d'altra parte il cittadino non è che mira a, in qualche modo, a vendicarsi del medico, insomma, ma in qualche modo ad avere un risarcimento, o sarebbe meglio dire un indennizzo, per il danno che ha subito. L'ultima questione, stiamo attenti a un dato di fatto però. Non tutto ciò che di avverso accade in sanità è riconducibile a un errore dell'operatore. No, certamente. No, perché molto spesso, voglio dire, per la nemesi storica, il cittadino che sente la medicina magnificare i suoi progressi, trapiantiamo il cuore, pensa che i miracoli siano all'ordine del giorno. Esatto. No, ma questo accetta, non accetta che si possa morire di polmonite in pronto soccorso anche se alla venerabile età di 100 anni. Però la cosa che le chiedo è questa, essendomi, voglio dire, occupato da volontario, da paziente, insomma, sono entrato in contatto molte volte con pazienti o familiari di pazienti che ritenevano che la cartella clinica non fosse coerente con quello che era davvero avvenuto. Ma l'obbligatorietà della cartella elettronica, della cartella digitale, secondo lei non sarebbe una soluzione di garanzia per entrambi, sia per medici e paramedici? Io credo di sì. Teniamo però presente che la manipolazione della cartella è un reato penale. Lo so. È un reato penale e di per sé stesso, voglio dire, è indice di colpevolezza del sanitario. Non c'è dubbio, voglio dire, però bisogna poterlo provare. Come si fa? No, voglio dire, guardi, i giudici ci riescono abbastanza bene, voglio dire, cancellature, scritture non coerenti, date che non coincidono, orari che non coincidono tra più professionisti, perché ormai la cartella è multiprofessionale. Cioè la cartella clinica, certo, non mette mano soltanto il medico. Certo, sono d'accordo. Quindi, voglio dire, fare a posteriori ottenere una congruenza di tutti i dati non è semplicissimo, voglio dire, insomma. È già un giudice che vede la cartella pasticciata già comincia a sospettare che c'è qualcosa che non quadra. Comunque è fuori di dubbio che la cartella elettronica sarebbe un indicatore di trasparenza sicuramente maggiore, voglio dire. Mi chiedo come mai, visto che annunciamo sempre riforme digitali. Questo deve essere in ritardo rispetto a qualcosa. Può darsi che tra un paio d'anni ci arriveremo. Lei lo sa meglio di me, in altri paesi, in Olanda e così via. Ma in molto ospedale c'è la cartella elettronica. Sì, lo so, diciamo non è un obbligo, cioè, ancora. Non è un obbligo, soprattutto non è accessibile dai pazienti, esatto, se non attraverso procedure abbastanza strane. Anche perché purtroppo gli ospedali comprano i programmi ognuno per se stesso. Bravo. Questo è un altro assurdo totale. Completamente d'accordo con lei, la ringrazio per aver toccato anche questo aspetto del procurement, cioè degli acquisti, che è un'insensatezza assoluta. Allora, adesso abbiamo un minuto di informazione stradale e poi con Cristiano Cominotto andiamo a vedere la questione invece dal punto di vista, diciamo, dei legali e quindi di chi sta da un'altra parte della trincea a tutela dei pazienti e delle loro azioni. Tra un minuto. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta la versione di Oscar. È Eccoci tornati in diretta, stiamo parlando di questa nuova riforma della responsabilità, per la, anzi la prima tipizzazione in legge della responsabilità civile, e c'è anche una pice penale dei medici, paramedici, e giustamente mi fanno notare alcuni ascoltatori, anche i tecnici laboratorio, lo abbiamo appena detto, la cartella medica, non sono solo i medici e i paramedici che concorrono tutte le professionalità presenti naturalmente in ospedali e case di cura. Abbiamo visto in sostanza la riforma volta a impedire l'eccesso di contenzioso lamentato dai medici nei confronti delle loro decisioni, si passa come termine di prescrizione da 10 a 5 anni e l'onere della prova è invertito, non sono più i medici a dover provare di non aver avuto colpe, ma sono i pazienti a dover provarlo in giudizio, e la questione è: ma hanno accesso davvero agli elementi per poterlo fare? Che ne pensa il presidente di Assistenza Legale Premium, Cristiano Cominotto? Sì, buongiorno. Ma io penso che sia la solita legge fatta male, la solita legge all'italiana, peraltro una legge anche estremamente pericolosa, perché si fonda su tutta una serie di presupposti che a me francamente fanno un pochettino paura. Uno di questi presupposti è che i giudici sbagliano, e sbagliano evidentemente ripetutamente, perché non dimentichiamo che quando si fa una causa ci sono due possibilità sostanzialmente: o che viene confermata la responsabilità del medico, oppure che non viene confermata, e naturalmente questo è al vaglio dei giudici, quindi può tranquillamente darsi, come spesso accade, che un giudice dica no, il medico in questo caso non ha sbagliato. Quando invece affermano l'errore medico, teoricamente l'errore medico in qualche modo dovrebbe essere accertato, e quindi l'errore ci dovrebbe essere. Quindi io di base non riesco a capire dove nasca, no, l'esigenza di fare una legge, per quale ragione? Perché i giudici sbaglierebbero a fare le sentenze? Poi peraltro devo dire anche un'altra cosa, noi avvocati quando iniziamo le cause, prima di iniziare le cause facciamo fare una perizia dell'operato del medico, quindi andiamo da un altro medico e gli diciamo: valuta se quello che ha fatto questo medico è corretto e sbagliato. Se il nostro perito ci dice: guarda, come a me, io personalmente che faccio responsabilità medica, prendo mediamente una causa su 3, forse una causa su 5, o forse anche di più, perché spessissimo i miei periti mi dicono: guarda che in questo caso io non vedo la responsabilità medica e quindi sostanzialmente non vado avanti. Però francamente nel momento in cui un perito mi dice che effettivamente vede la responsabilità medica, io non riesco a capire perché debba essere tolto un diritto, peraltro costituzionalmente garantito ad un cittadino, di vedersi riconosciuto un risarcimento del danno nel momento in cui eventualmente il medico sbaglia. Ma questo in tutte le professioni, questo avviene in tutte le professioni, questo avviene anche per noi avvocati, avviene per i notai, avviene in tutte le professioni. Quindi io francamente non riesco a capire perché per i medici ci debba essere una legge ad hoc. Dopodiché siamo tutti pazienti, quindi la sanità ci riguarda tutti, e io sono assolutamente convinto che noi siamo tra le popolazioni e le nazioni che abbiano tra i migliori medici in assoluto di tutto il mondo, e su questo non si discute assolutamente. Però che il cittadino debba avere la garanzia di poter esercitare un proprio diritto in giudizio senza essere particolarmente vessato dallo Stato per esercitare questo diritto, mi sembra un fatto assolutamente scontato. Nella legge, peraltro, c'è anche l'introduzione del cosiddetto albo dei superperiti. Ora, io prima di tutto mi chiedo chi siano questi superperiti e che quali siano le caratteristiche per diventare superperiti. Ma al di là di questo, a me l'unica cosa che mi viene in mente è che con una legge di questo genere si alzeranno ancora i costi per i cittadini, per poi poter andare in causa e vedere i loro diritti accertati. Perché già adesso, naturalmente, fare una causa ad un medico costa, perché tu ti devi pagare l'avvocato e in più naturalmente ti devi pagare anche il perito. Adesso che avremo addirittura i super periti, mi viene in mente che probabilmente queste cause diventeranno talmente tanto difficili che sarà praticamente impossibile per il cittadino potersele permettere. E poi c'è il discorso dell'inversione dell'onere della prova. Ma voglio dire, ma senza essere un avvocato, anche soltanto a ragion di logica, ma perché io cittadino che non sono un medico, devo provare l'errore del medico, ma come faccio che non ho l'esperienza, non ho le capacità, né tecniche, né logiche per riuscire a dimostrare la responsabilità del medico nel momento in cui l'onere probatorio è tutto a mio carico. In questo momento come funziona? Lo ripeto e poi concludo. In questo momento io faccio fare una perizia al mio perito medico che mette in evidenza se c'è o non c'è la responsabilità del medico. A quel punto a me sembra corretto che il medico si debba difendere e possa dire: no, guarda, tu mi accusi di avere sbagliato, io ti spiego perché non ho sbagliato, e quindi si difenda rispetto all'accusa che io gli formulo. Questo mi sembra un principio corretto dell'onere probatorio, e funziona così in tutte le professioni. Non vedo francamente perché la professione medica debba fare eccezione. Allora, ci sono ragionamenti, come vedete, contrapposti. Io sono molto preoccupato di quello che può avvenire sulla facoltà vera, provata, fondata, per così dire, di addurre elementi tali da parte del paziente e dei suoi familiari in giudizio da comprovare, oltre ogni ragionevole dubbio, l'eventuale colpa del medico. Io, nella mia esperienza, devo dire, non vedo questa cosa molto percorribile. È la mia opinione, quindi a me preoccupa moltissimo questa roba. Io prima avrei detto cartella elettronica obbligatoria, poi si vede, però questa è la mia opinione. Sentiamo un po' rapidamente telefonate. Francesco da Latina. Francesco, prego. Buonasera dottor Giannino, io sono un medico, praticamente chiamo per esporre un paio di punti. Innanzitutto sull'avvocato che diceva che ci sono costi per il cittadino, basta uscire da qualsiasi ospedale e trova parte lesa o altre associazioni che forniscono un gratuito patrocinio contro i medici, quindi già lì è un modo di procacciarsi i clienti che non è tanto. L'ho detto medico all'inizio, che questa è una cosa che lamenta. Esatto. Ma andiamo oltre. Io vengo citato in giudizio da un cittadino, ha ragione o non ha ragione, e praticamente per 10 anni verrà fuori che io ho quella colpa, perché se non provo l'onere come era fino adesso ho colpa, ma da sé che i pazienti da me non ci verranno perché quel paziente l'ha citato perché ha fatto quel diventa danno. Un danno reputazionale, esatto, le dice 10 esatto, anni è finita esatto, la carriera, è finito il lavoro. Esatto, io invoco danno emergente e lucro cessante, nel senso che la gente da me non ci verrà perché ho fatto data attività e io per 10 anni avrò pure un danno. E questo pure lo capisco. Ma oltre questo, magari tra 10 anni un giudice viene e dice: no Francesco, in quel caso ha fatto bene, il cittadino ha torto, io non posso rivalermi nei confronti del cittadino. Allora la mia proposta è questa: rigirare totalmente la richiesta da parte del cittadino nei confronti del professionista, nel momento in cui venga appurato che il danno sia non imputabile al professionista, rigirare la richiesta a danni. E l'ultima cosa che volevo dire era quello: limitare la responsabilità medica alla sola colpa grave, perché negli attuali pronto soccorsi o corsie il personale è ridotto all'osso. Perché io non questo posso fare neanche l'obiezione professionale di curare o non curare? Se ho una struttura che può curare 100, io devo curare 200, il personale invece di essere... E questo ha a che 10. Vedere proprio con la natura attuale della responsabilità da contatto, per così esatto dire. L'ultima cosa, poi la lascio. Prima si parlava di competenze. Sì. Il cittadino non ha competenze tecniche per difendersi dai medici, che sono cattivissimi, descritti dall'avvocato. Io ricordo all'avvocato che neanche l'avvocato ha detto che sono i migliori del mondo, su. No, okay. No. Però neanche l'avvocato ha competenze tecniche per parlare di sanità. Su questo credo che siamo d'accordo. Adesso, guarda, io purtroppo ci sono molte altre domande. Questo è un classico argomento da un'ora almeno, perché io penso che bisognerebbe discuterne di più sui giornali. C'è stato un solo giornale che ha dedicato un articolo fino a questo momento a questa questione, La Stampa, voglio dirlo per ringraziarlo. Possibile che facciamo una riforma di questo impatto senza saperne un piffero di niente tutti noi? Oh, colleghi giornalisti, ma che cavolo facciamo? Qua si tratta della vita di migliaia e migliaia di professionisti da una parte e di tutti gli italiani dall'altra. Forse è meglio saperne di più. Che dite? Continuate con Radio 24, non vi ho parlato di banche, non parlate stamattina, ma ne parlerò anche domani. Comunque continuate con Radio 24, appuntamento domani alle 8:15 con Alessandro Milan. Attenti a noi due.